Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di stampa 3D nel mondo dell'aeronautica con l'aiuto di Giorgio Abrate, responsabile dell'ingegneria di Avio Aero, che è tornato a trovarci questa sera. Buonasera, bentornato. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, Avio Aero intanto è un'azienda che si occupa di produrre parti per il mondo dell'aeronautica, e a Cameri Avio Aero ha già una fabbrica, una cosiddetta fabbrica 4.0, come si dice oggi, dove si producono le pale delle turbine del futuro Boeing 777X interamente con un processo di stampa 3D. Quindi possiamo dire che in questo mondo, diciamo, dell'aeronautica, la stampa 3D effettivamente sta cominciando a esordire. E voi di Avio Aero state investendo molto in questa direzione, tanto è vero che ne abbiamo parlato ieri di un laboratorio che state aprendo dedicato alle riparazioni, ma qui c'è un nuovo laboratorio che invece è l'argomento di cui parliamo questa sera, che aprirete a Torino. Si chiama Turin Additive Lab, dove lavorerete sulla progettazione di nuovi pezzi fatti sempre con la stampa 3D. Allora, intanto le chiedo che vantaggio offre alla fine la stampa 3D in ambito aeronautico rispetto alle tecnologie tradizionali? Allora, in aeronautica noi ci confrontiamo con una sfida tutti i giorni, che è quella di aumentare le prestazioni e la durata in servizio dei nostri componenti, ma di ridurre il peso e di ridurre i costi. Allora, nel passato queste quattro cose erano antitetiche, erano in continuo conflitto. Aumentando le prestazioni tipicamente aumentavamo il costo, aumentavamo la complessità e aumentavamo il peso. Mm-hmm. Ecco, l'additive manufacturing ci dà una libertà di progettazione, una libertà geometrica, una libertà di scegliere dei materiali difficili, che ci permette di indirizzare queste quattro cose in contemporanea. Riusciamo in alcuni casi a aumentare le prestazioni e ridurre i pesi, ridurre i costi e aumentare la durata. Questo è veramente per noi un'opportunità eccezionale. Ecco, per fare un esempio, comunque adesso che credo sia corretto, banalmente una struttura a nido d'ape, sappiamo tutti, no, che sono quelle strutture leggere e resistenti, è molto difficile da fare con tecnologie tradizionali ed è semplicissima da fare con una stampa 3D. Esatto, e poi lo stesso pezzo può avere una parte strutturale ad alta densità e poi, senza dover saldare un altro componente, diventare a nido d'ape, come diceva lei, per offrire un'altra funzione che può essere ammortizzare degli urti piuttosto che garantire una tenuta. Quindi effettivamente l'additive manufacturing ha questa possibilità di utilizzare il processo per realizzare pezzi che in passato erano impossibili. Quindi molti più gradi di libertà, potremmo dire così. E c'è un progetto sul quale vi state già mettendo alla prova? Sì, Avio Aero è parte del gruppo General Electric, ci è stato assegnato il compito di sviluppare un nuovo motore che sarà a regia completamente italiana, sviluppato qui a Torino con gli altri siti italiani di Brindisi e Napoli. In questo motore, che è un motore piccolo da 1000-1500 cavalli per applicazioni General Aviation, per intenderci per Cessna. Il Cessna, sì. Ecco, e per questo motore noi abbiamo utilizzato in modo estensivo il design for additive, cioè abbiamo iniziato a pensare quello che le macchine di stampa 3D rendono possibili e siamo riusciti a ridurre del 35% i componenti del motore. Introducendo 13 parti additive ne abbiamo rimosse più di 850 con tecnologia convenzionale. Questo vuol dire che queste parti che avete sostituito prima erano fatte da 50, 60, 70 pezzi sostanzialmente. In certi casi sì. Esatto, questo riduce la complessità, riduce l'onere dell'assemblaggio, chiaramente peggiora il discorso della riparabilità perché più pezzi sono integrati, ma è per questo che stiamo lavorando sul repair in parallelo, certo. Consentire di non riparare per sostituzione, ma adottando questi processi innovativi. Certo, insomma, più parti vengono inglobate in un unico pezzo, più importante è che quel pezzo si ripari e non si sostituisca, perché sennò si sostituisce mezzo aereo alla fine. Ecco, senta, abbiamo visto i vari vantaggi che la stampa 3D può offrire in ambito aeronautico, però di fatto oggi c'è forse un solo pezzo nel mondo che viene già prodotto in serie ed è in servizio, fatto con la stampa 3D. Dove stanno i problemi? I problemi stanno nel fatto che noi stiamo parlando di stampa 3D di componenti metallici, non di componenti plastici come in altre applicazioni. E quindi il metallo in campo aeronautico deve dare delle prestazioni termiche, deve sopportare alte temperature e meccaniche, quindi deve sopportare la fatica meccanica, e per avere queste due caratteristiche dobbiamo assicurarci che il metallo abbia quella microstruttura esattamente tarata sulle nostre necessità. Diciamo che forse la parte più difficile riguarda la metallurgia oggi come oggi, ancora adesso. Cioè il problema è che lavorare con i metalli è proprio difficile perché hanno comportamenti molto complessi, si ritirano, si espandono. Assolutamente sì. Teniamo conto che una macchina di stampa 3D sofisticata per produrre parti in metallo ha centinaia e centinaia di parametri che devono essere settati. Ecco, una variazione anche minima di uno di questi parametri può avere degli impatti molto significativi sulla resistenza termomeccanica dei componenti. Bene, grazie allora Giorgio Abrate. Grazie a voi.